cambio ogni stagione. Io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza, che gran brutta razza. Io no. No, così non mi va. Perché ci credo adesso e ieri era lo stesso. Nel domani è un fiore in mezzo ai rami. Ci sarà più sole, splenderà di più e potrai scaldarti pure tu. Potrás